11. Ascolta e controlla. Mario ha due giorni pieni di impegni. Domani, alle 9, ritirerà i documenti del signor Rollo in comune e andrà all'appuntamento che ha con lui in ufficio. Dopo telefonerà all'architetto Ravi per confermare l'appuntamento a pranzo. Nel pomeriggio, dopo che avrà accompagnato la nonna da Luisa, andrà dal dentista. Dopodomani Mario andrà a prendere Luca all'aeroporto e dopo l'appuntamento con il signor Santi andrà all'ufficio postale per pagare le tasse. Dopo che avrà consegnato i disegni di Villa Ibiscus, parteciperà al congresso all'hotel Marni e ci rimarrà per cena.